scuoline. Chissà poi dove andrò, ma non ho paura, no, neanche un po'. Tutto è buio attorno, un abisso forse, ma c'è una luce in fondo, dove finirà? Angelo del tempo, angelo del sole, dammi le parole. Angelo del sogno, angelo del mare, fammele cantare. Seguo la tua voce, scendo giù nell'alto cielo, porta via la notte, anche tutto il gelo. Come una sirena, la canzone porta i sogni, seguo il mio destino, porto la poesia. Angelo del tempo, angelo del sole, dammi le parole. Angelo del sogno, angelo del mare, fammele cantare. Seguo la tua linea e non so dove andrò, ma non ho paura.